braccio forte preparasti all'impresa. All'opera dunque, io voglio che ritorni a regnar. Mannaggia insoglio! Contro Pompeo pretendi? Questo è il comando e questo è il desiderio mio. Tu pensa il resto.